Ore 11:43 di questo martedì 17 marzo, bentornati in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come ogni martedì comincia una nuova puntata di Parole Ribelli. Oggi qua negli studi di Via Cecchi sarò da sola fino alle 12:45, colgo l'occasione per scusarmi del ritardo, ma purtroppo appunto l'assenza di Eddie, che insomma saluto, non permetteva di fare diversamente, ma insomma cercheremo di sfruttare al meglio quest'ora rimanente per questa settimana. Allora, prima di iniziare con la puntata, andarvi a presentare gli argomenti di quest'oggi, vi lascio ancora un pezzo musicale, poi iniziamo subito. Buon ascolto. Chi sarà? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi sarà? Chi sarà? Non sanno chi tu sia, ovunque tu sia nato. Porteranno via soltanto se sei laureato. Sei mesi dopo e puoi ritenerti fortunato. Se ci sei nato a paro perché t'hanno pure pagato. Cos'è ti affanni? Ti vedo preoccupato. Aspetti ancora i soldi che non ti hanno rimborsato. Ci sei nato sotto per colpa del boom. Le tasse non le paghi con i punti del rum che ti bevi. L'uomo delle nevi dice vieni a riscaldarti. Tu faresti meglio a non fidarti. Guardati attorno, rubano alla luce del giorno. Pronti ad incularti. Patti chiari non esiste in Italia. Si fa gara su al potere per vedere chi è il primo che si sbaglia. Votano girando la bottiglia. Il messaggio è no se pensavi di mantenerti una famiglia. Che sarà? Chi lo sa? Aggrappati a qualche chance di arrivare nel futuro oltre il muro della realtà. Che sarà? Chi lo sa? Aggrappati a qualche chance di arrivare nel futuro oltre il muro della realtà. E non ce vanno sta, non me le vanno fa fa. Come mai il mio corpo non va se non le faccio? Un giorno compro, quello dopo sfascio. Prendo sto paesaggio, lo smonto, me lo mangio. Saggio per capire che in palio c'è sto pure io come premio. Tu sei il destinatario. Uso la testa solo come cranio. Più sono contrario, più sono precario. Sbaglio, dimmi se questo è un guaio, se è un pregio. Mo me taglio e domani sarà meglio. Du Long Island qui davanti, me li scuro e dopo prendo per il culo tutti quanti. Passano gli anni coi danni, anni da lavare pure tanti, ma lo farò più avanti. Lascia perdere pensare che puoi farlo. Il sogno nel cassetto non esiste, realizzarlo. Sono contrario. Sono precario. Devi conoscere qualcuno che ti presenta qualcun altro. Devi leccare il culo di chi sta seduto in alto. Arrampicarsi, fottere chi ti sta accanto. Se ti fa male comprare un medicinale adatto, chiedi e non ti sarà dato. Pigliatelo e basta, sarai sempre stimato e rispettato. Batti cassa a chiunque ti chieda un favore, senza guardare in faccia neanche il tuo amico migliore. Gli ideali lasciali perdere, sono 30 anni che non fanno più vendere. Usa il prossimo tuo come tuo mezzo, tanto il valore delle cose sta nel prezzo. È una stagione dove il cuore non serve, tra i corpi in decomposizione campa chi è più verme. Ma siamo i figli dei consigli per gli acquisti, dobbiamo fare finta d'essere ottimisti. Che sarà? Chi lo sa? Aggrappati a qualche chance. sa. Sono contrario, sono più che sarà, chi lo sa. Sono contrario, sono precario, precario. Allora, 11:48, bentornati all'ascolto di Parole Ribelli. Andiamo a presentare brevemente gli argomenti per questa puntata di oggi, per quanto, insomma, con tempi un po' più ridotti del solito. Dunque, una settimana esatta fa, a questi microfoni, Eddie stava raccontando, insomma, di quanto accadeva alla Palazzina Einaudi qui all'Università di Torino con, insomma, l'ennesimo arrivo iperblindato dei fascisti del FUAN, organizzazione studentesca di ispirazione appunto neofascista, costola, insomma, giovanile di Fratelli d'Italia, che appunto è solita presentarsi in tempo di elezioni universitarie dentro le facoltà, portandosi dietro un il solito codazzo di camionette della Celere e agenti della questura. Insomma, come molte altre volte già accaduto in questi anni, diversi studenti e studentesse si sono radunati per allontanarli, fargli capire che la loro presenza e quella degli sbirri che li accompagnavano non era certo cosa gradita, ma a differenza, insomma, di altre volte, abbiamo poi assistito nei giorni successivi a una serie di prese di parole, di posizione da parte di illustri nomi, ecco, mettiamola così, che hanno preso le difese del FUAN in nome di una non meglio precisata libertà di espressione. Quindi andremo un po' a ripercorrere alcuni di questi commenti e soprattutto, insomma, commentarli un po' per cercare di riportare, insomma, la barra del dibattito un po' più dritta. Per quanto riguarda sempre il contesto cittadino, invece, cercheremo di metterci in contatto con alcuni studenti di medicina, della facoltà di medicina, che lavorano e studiano all'ospedale San Luigi, che è uno dei poli sanitari di Torino, che è al momento a rischio grazie al nuovo piano di dismissione della sanità. Sono previsti nuovi tagli all'orizzonte e appunto il San Luigi rischierebbe di chiudere, con tutta una serie di conseguenze anche appunto rispetto agli studenti che lì dentro studiano. Quindi cercheremo di farci raccontare un po' qual è la situazione. Questo è più o meno quanto, direi che, visto anche il poco tempo a disposizione, sarà anche sufficiente. Vi lascio un po' di musica prima di iniziare con le dirette e gli approfondimenti. Servo del capitale, i giorni passano ma non puoi cambiare, amico delle banche e del principale, pensa a invecchiare, loro a succhiare. Servo del capitale, sono la giostra che devi provare, lo faccio apposta, faccio sognare, decido quanto costa, chi ci può andare. Servo del capitale, cosa ti prende, cosa vuoi fare, fai finta di niente se ti prende a male, se no il dirigente ti fa cacciare. Servo del capitale, di sempre sì, senza indugiare, nell'interesse tuo personale, servire e riverire il principale. Servo del capitale, lo so io quando c'è da aumentare, quando si può non si può mangiare, devi solo bere quello che ti sto a raccontare. Lo show deve continuare, la produzione non può rallentare, stringi il bullone, schiaccia il pedale. Servo del capitale, va tutto bene, non ti preoccupare, non ci pensare, tutto normale, guarda davanti e non ti voltare. Servo del capitale, sanno già tutto, non puoi scappare, fai come dicono, senza fiatare, non protestare, tira a campare. Servo del capitale, quale speranza di risparmiare, anima frutto d'una reclame, ora serve macchina, serve cellulare. Servo del capitale, meno guadagni, più tasse da pagare, non ti lagnare, non commentare, né criticare chi ti fa lavorare. Servo del capitale, china la testa, datti da fare, che c'è richiesta che sale da soddisfare, il PIL deve incrementare. Servo del capitale, lo show deve continuare, la produzione non può rallentare, stringi il bullone, schiaccia il pedale. Servo del capitale, tu vuoi la casa, allora è normale, questo legame siamo tutt'uno, io sono il mutuo da pagare, regolare. Servo del capitale, segui il messaggio promozionale, unisciti al branco, non ti fare notare, chi è differente tende a crepare. Servo

11.58, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come annunciato poco fa, facciamo un passo indietro, andiamo un po' a ripercorrere la polemica che si è sollevata qui a Torino nei giorni successivi alla ennesima cacciata dei fascisti del Fuan dall'università, in particolare dalla palazzina Einaudi di Corso Regina, sede delle facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza. Cacciata avvenuta appunto martedì scorso, insomma Parole Ribelli ha seguito in diretta gli avvenimenti. Al termine della contestazione, gli studenti e le studentesse antifasciste, insomma stufi di dover assistere ogni volta a queste pagliacciate del Fuan, che per distribuire un volantino dai contenuti tra l'altro inaccettabili, dai toni profondamente razzisti, mobilita ogni volta decine di celerini bloccando per un'intera mattinata l'università. E quindi insomma, una volta che i fascisti si erano ormai allontanati, è stata anche così sanzionata la loro sede, che l'università gli ha gentilmente concesso all'interno della palazzina Einaudi, una stanzetta in cui insomma è molto difficile vederli, ma che di fatto gli è stata appunto assegnata, e sulla cui porta sono comparse alcune scritte appunto che recitavano: ama la libertà, odia il fascismo, Fuan rigurgito della storia. Questo evidentemente deve aver smosso diversi animi che si sono sentiti in dovere quindi di prendere le parti del Fuan, e da lì insomma abbiamo assistito prima a questa lacrimevole intervista a uno studente che a sua detta è stato aggredito all'esterno di quest'aula mentre chiedeva spiegazioni di quanto stava accadendo. Insomma, la realtà dei fatti, che abbiamo cercato anche di ricostruire poi sul nostro blog qa-torino.blogspot.it, e che questo povero studente in realtà fosse un militante del Fuan per sua stessa ammissione, facendo insomma poi un giro anche sulla sua pagina Facebook, si nota come appunto sia ben più di un simpatizzante del Fuan, ben più di uno studente indignato che si chiedeva come mai l'auletta del Fuan venisse imbrattata, ma appunto i contenuti della sua pagina ne rivelano insomma le simpatie profondamente fasciste e razziste. Quindi in questo i giornali hanno dato una prima prova appunto di insomma di poca attenzione al reale svolgimento dei fatti, tanto più che in quella mattinata i primi a far volare qualche cazzotto sono stati proprio quelli del Fuan. Quindi insomma poche ore dopo questa intervista lacrimevole al povero studente che difendeva peraltro l'icona di Borsellino, che è poi quello che ha fatto un po' andare su tutte le furie una serie di personaggi, dato che l'auletta è intitolata a lui, appunto aveva poca attinenza con la realtà. Ma insomma la vicenda non si è fermata qui, perché successivamente hanno preso parole una serie di personaggi particolarmente di spicco. Il primo è stato Giancarlo Caselli, che insomma ha iniziato a mettere insieme una serie di episodi, a partire da uno che l'aveva visto coinvolto, meglio non coinvolto, dato che sarebbe dovuto intervenire all'Università di Firenze nella stessa giornata, ma di fronte all'annuncio di una contestazione da parte di un collettivo studentesco ha preferito non presentarsi, e di qui insomma ha lanciato una serie di improperi, di insulti agli studenti, definiti come insomma degli idioti, degli squadristi e tutto il solito repertorio di insomma di epiteti che vengono dati a chi insomma osa levare una voce di contestazione. Peraltro anche Caselli è solito accompagnarsi ad una scorta piuttosto numerosa, quindi insomma dubitiamo che il semplice fatto di portare all'esterno di quell'aula una contestazione sarebbe stato davvero così un attacco grave nei confronti dell'ex procuratore. Ma a dargli manforte è arrivato poi il capolavoro definitivo di un suo collega, Vladimiro Zagrebelsky, che nei giorni successivi appunto a questi episodi sulle colonne della stampa ha scritto un breve corsivo intitolato "Troppe minacce alla libertà di espressione", in cui appunto con una serie di voli pindarici veramente notevoli ha messo insieme tutta una serie di episodi che tenevano assieme appunto la contestazione al Fuan, quella mai peraltro avvenuta a Giancarlo Caselli, Charlie Hebdo e la Lega Araba, insomma una crocchio decisamente notevole. E insomma il leitmotiv con cui Zagrebelsky giustifica questo suo capolavoro di retorica è l'ormai svuotata di qualsiasi senso libertà di espressione, in nome della quale secondo lui appunto anche i fascisti del Fuan andavano difesi da quello che a suo dire è stato un attacco squadrista. Insomma, la cosa divertente è che oltre appunto all'assurdità di questo scritto, Zagrebelsky stesso riconosce che insomma la libertà di espressione non dovrebbe essere illimitata, ma non dovrebbe soprattutto comprendere la libertà di insultare o di diffondere odio e razzismo, che è esattamente quanto stavano venendo a fare i rampolli del Fuan all'università, distribuendo un volantino che chiedeva le borse di studio solo agli italiani, che insomma ricorda molto i toni di periodo insomma non proprio felici della storia del nostro paese. E niente, però evidentemente senza avere una conoscenza dei fatti ha ritenuto invece necessario prendere le parti dei fascisti in nome di appunto questa libertà di espressione, che evidentemente è un concetto sempre più vacuo e retorico, che viene utilizzato in realtà appunto non per tutelare una libertà di espressione quanto più una libertà di mettere a tacere qualsiasi voce di contestazione e qualsiasi voce che prova appunto a mettere in discussione una serie di discorsi. Su tutto questo comunque appunto l'articolo di Zagrebelsky lo potete trovare sulle pagine della Stampa di qualche giorno fa, è girato poi anche su internet, insomma una scannerizzazione, quindi lo potete recuperare se vi interessa leggere questo suo commento, mentre sulle pagine del nostro blog sempre abbiamo poi risposto a questo editoriale. Peraltro inizialmente c'era stata garantita la possibilità di appunto avere possibilità di replica sulle pagine della Stampa, cosa che ovviamente poi a cose fatte ci è stata negata, ma insomma questo era anche prevedibile, abbiamo deciso comunque di proporlo. E niente, questo era insomma un po' per fare il punto sugli strascichi di questa vicenda. Rispetto al Fuan, insomma, la campagna elettorale è ancora in corso in università, quindi possono già sapere che se metteranno di nuovo fuori il naso nei prossimi giorni troveranno nuovamente gli studenti e le studentesse antifascisti a allontanarli dalle proprie facoltà. Io adesso vi lascio a un po' di musica, poi ci mettiamo in collegamento con uno studente di medicina del San Luigi che ci racconterà un po' quello che sta succedendo. Rock Baracus, un'altra pazzia di San Business, DJ Z, Red MC, e oggi non passa più, oggi il tempo è troppo poco, uno scarto, una candela che non vale il gioco, luce fioca, stasera si spera. E nel frattempo al 346-667-3263 sono arrivati un paio di sms rispetto a quanto stavamo raccontando. Il primo ci scrive: sto cacchio di Caselli non manca proprio mai, prima o poi lo vedremo anche fare la pubblicità anticaduta per la Dercos. Saluti, e beh sì, effettivamente continua a essere abbastanza onnipresente nel dibattito pubblico. Mentre un secondo messaggio diceva: minchia, ma questi sono proprio malati mentali, Fuan merde sec. Beh, insomma, non possiamo che essere d'accordo anche da questi microfoni. Ne è arrivato un altro proprio in questo momento che ci scrive: per De Luca la libertà di espressione non esiste. Beh sì, questo fa riferimento tra l'altro all'apertura del processo nei confronti di Harry De Luca, accusato appunto per una sua frase che avrebbe istigato al sabotaggio. Insomma, anche questo conferma quanto il concetto di libertà di espressione sia un'arma a doppio taglio che viene usata di volta in volta per appunto quando fa comodo per difendere determinati discorsi, quando invece si dice qualcosa che non rientra appunto nel dire tutti la stessa cosa, quella che va bene, che non mette in discussione nulla, che mette tutti d'accordo. Allora a quel punto fioccano poi le accuse, addirittura i processi. Vi lascio di nuovamente alla musica. Il tubo catodico spaventa la mia retina, ma non l'impressiona, perché senza poetica i racconti della gente urlati nelle orecchie, dal freddo dei palazzi sento storie mai vecchie. Oggi si soffre, spero sia per sorridere il dolore che si investe.

it's my turn to flow. Ooh, oy. Starting up, oy. Now it's my turn to flow. Ooh, oy. Starting up, now it's my turn to flow. Ooh, oy. Starting up, oy. Now it's my turn to flow. Ooh, oy. I know I watch me shoot like a missile. While the people listen, all of them I like it. So them all start to listen to the intro I did. Stop pounding like a kid, cause the money you spent has been well invested. You guessed it. Now watch me glow just like a neon. Cause every time I be pawned, I'm like, I can't go wrong with all these good spirits surrounding me. Just like Tachi, I got some harmony. Me say me ready, me ready. Me say you can't test me, cause I got the shit for you hip hop addicts. As soon as it's heard, you cold lick your lips, so take a seat. Do you want some more to eat, or stay out the kitchen if you can't stand the heat? So you watch me glow, but it's time to go. Of course, now it's his turn to flow. Storyteller, kick it, take it to him. C-E-R-O, what does that spell? Zero stress, DJ Grub, zero stress, Top Cat, zero stress, Nefer, zero stress, Chaos, zero, zero. Why you wanna try to fly to play a hero? I'm talking zero stress, Storyteller, super, super, super, with the rest of my style never gets no faster with the rest of the beat, beat, five, five, four, four, four. Check it out, my style, here I come, I never run. I'm more hotter than the tan coming from the black man who was sitting in the sun. Zero stress, DJ Grub, zero stress, Top Cat, zero stress, Leffa, zero stress, Chaos, zero stress. A zero stress off the chest and I bet I impress. Cose che non riuscivo a capire mai, cose che vorrei davvero dirti, ci sono cose che non riuscirò a capire mai. Pare rock, balli come un ziker, in mezzo a parole vuote, atteggiamenti del menga, accordi su scale pentatoniche senza gradini. 105.250, torniamo in diretta con Parole Ribelli, seguiamo insomma quanto avevo annunciato a inizio di puntata, rimaniamo sul contesto locale torinese per parlare di quello che accadrà alla sanità di qui ai prossimi mesi. Proprio la scorsa settimana l'assessore al bilancio della giunta regionale piemontese di Chiamparino ha illustrato appunto il piano di bilancio per i prossimi anno e in questo figurano una serie di tagli piuttosto pesanti a tutti i settori della spesa pubblica e in particolare alla sanità. Questo piano di ristrutturazione avrà ovviamente delle ricadute importanti sul tessuto cittadino, ma di questo ne parliamo con Daniele che dovrebbe essere qua in diretta. Ciao Daniele, mi senti? Sì, ciao, un saluto a voi e agli ascoltatori. Ecco, con te vorremmo un po' discutere della situazione dell'ospedale San Luigi, che è quello che in questo piano appunto di declassamento di una serie di poli sanitari rischierebbe la chiusura di tutta una serie di reparti. Il San Luigi è anche uno degli ospedali in cui la maggior parte degli studenti di medicina insomma studiano, fanno poi i tirocini, quindi questo oltre ad avere una ricaduta importante rispetto appunto alla situazione sanitaria generale potrebbe causare anche tutta una serie di problemi per gli studenti a livello universitario, ma ti lascio insomma la parola per spiegarci un po' meglio che cosa sta succedendo. Sì, esatto, come hai detto il San Luigi è sede di un polo della facoltà di medicina, che adesso si chiama scuola di medicina, e bisogna dire che questo declassamento del San Luigi, di cui si parla ormai da mesi, non porrà, per così dire, il problema di chiusura di questo polo didattico, o almeno è stato garantito che il polo didattico resterà al San Luigi, il che è un aspetto estremamente importante perché ospita ormai un numero di studenti che non sarebbe assorbibile dalle strutture di Torino. Quello che crea preoccupazione tra gli studenti e a mio parere motivata e per quanto riguarda la qualità della didattica e dei tirocini, perché ovviamente la chiusura di molti reparti specialistici precluderà agli studenti la possibilità di fare dei tirocini in quei reparti, di formarsi in quei reparti. Dal punto di vista della didattica, poi la chiusura di quei reparti determinerà un'emorragia di docenti che verosimilmente non resteranno in questa struttura come primari o come medici, e è facile immaginare che possano andare da altre parti e quindi lasciare libere delle cattedre. Questo forse non capiterà con gli studenti che ad oggi, con i professori, scusate, che ad oggi insegnano a San Luigi, però è logico che in futuro un possibile professore che dovesse venire a insegnare a San Luigi potrebbe essere scoraggiato dal fatto che in questo ospedale non esiste un reparto specialistico della sua specialità. Questo ovviamente pone un grosso problema per quello che riguarda la qualità della didattica, che comunque ad oggi fortunatamente è molto elevata. Per quanto riguarda la ricerca, che è anche un altro aspetto fondamentale per noi studenti di medicina, ovviamente questo declassamento determinerà una riduzione delle risorse per fare ricerca, e questo non andrà tanto a discapito degli studenti dei primi anni quanto di quelli che vanno a laurearsi ed eventualmente a fare delle ricerche, sia per quanto riguarda i lavori di tesi sia per quanto riguarda il percorso post laurea. Ora, a questo è stato obiettato da parte dei promotori di questa riorganizzazione del sistema sanitario che il San Luigi sarà convertito a un polo di ricerca delle problematiche della terza età, quindi della fragilità, delle problematiche geriatriche e via dicendo. A nostro parere questa è una presa in giro, perché si tratta di mettere un bel fiocco a un pacchetto che alla fine finirà per ridurre le risorse di ricerca, ridurre le risorse stanziate per la ricerca che oggi al San Luigi è di alto livello. Certo. Un altro aspetto che facciamo presente è che noi oggi già studiamo in delle classi sovraffollate. I tirocini sono problematici per il fatto che ci sono tanti studenti. La riduzione della disponibilità dei reparti ovviamente determinerà un ulteriore affollamento e una riduzione della preparazione pratica degli studenti, che si troveranno a fare tirocini in troppo pochi reparti. E inoltre voglio anche aggiungere che comunque è avvilente da parte nostra, che adesso ci troveremo a studiare, in futuro sperando ci troveremo a lavorare in questo ambito, è avvilente assistere a questo meccanismo che ormai da mesi, anni, punta a uno smantellamento delle strutture sanitarie pubbliche così come le conosciamo. Beh sì, certo, diciamo che poi insomma, rispetto alla situazione di cui raccontavi tu, questi nuovi tagli a livello regionale vanno a sommarsi a tutta una serie di problematiche preesistenti dell'Università di Torino, che sono invece conseguenza di tagli e riforme a livello nazionale che si sono succedute negli scorsi anni, quindi sicuramente si andrà a incidere su una situazione già problematica e difficoltosa sotto molti punti di vista, soprattutto in una facoltà come medicina, in cui appunto ad esempio la questione dei tirocini è sicuramente fondamentale, ma diventa appunto credo sempre più complicata a questo punto. Certamente, sì, assolutamente. Senti, rispetto a questa questione del declassamento più in generale, il problema è anche che insomma in quella zona non ci sono molti ospedali, quindi verrebbe un po' a mancare anche un po' appunto l'ospedale, diciamo, di zona a scapito di altri quartieri in cui invece c'è una maggiore ricchezza, insomma, di servizi ospedalieri. Come mai è stata fatta questa scelta proprio del San Luigi, appunto anche alla luce del fatto che in quel quartiere però è un po' il riferimento per moltissime persone? Beh, io non sono, diciamo, a conoscenza delle dinamiche che stanno ovviamente dietro a queste decisioni. Si può però sicuramente notare come vi sia una decisione, per così dire, torinocentrica nel declassamento del San Luigi rispetto ad altre strutture nella città, nella zona metropolitana di Torino. Il San Luigi, come hai detto, serve tutta la zona della provincia ovest, diciamo, di Torino, sì. E non vi sono altri ospedali di queste dimensioni, a parte Rivoli, che però è già un ospedale assolutamente insufficiente a sostenere il carico di, diciamo, di bacino di utenza che serve. E questo lo può ben sapere chiunque si sia trovato in una situazione di dover prenotare una visita specialistica o accedere a un pronto soccorso in questa zona. Eh sì, sicuramente. È facile immaginare che vi siano anche delle decisioni politiche dietro questa scelta, che io però non posso conoscere e non posso permettermi di supporre. Ok, sì sì, no, infatti siccome appunto nelle scorse settimane c'è stata anche un'assemblea appunto di cittadini del quartiere, lavoratori, che voleva un po' discutere di questa situazione, mi interessava appunto anche questo aspetto, visto che c'è appunto sicuramente non solo una tendenza alla privatizzazione, ma proprio anche a restringere l'accesso a una serie di servizi, quindi sicuramente quello di penalizzare le zone periferiche probabilmente non è insomma una scelta casuale. Poi chiaramente bisognerà vedere nei prossimi mesi quello appunto come prenderà concretamente forma questo piano di ristrutturazione. Sì, sì, posto che il problema secondo me non si pone tanto sul discorso Torino contro provincia, perché in realtà il problema è strutturale a tutto il sistema. Certo. Anche chi si trova a dover prenotare un esame specialistico a Torino non è in una situazione tanto migliore di chi lo fa a Susa o a Rivoli o al San Luigi in questo momento. Beh sì, questo sicuramente. Aggiungo io insomma che la questione della sanità era stato uno insomma dei punti più contestati dell'operato della Giunta Cota durante lo scorso mandato, però sembra che sotto questo punto di vista, quindi del finanziamento dei servizi pubblici, anche questa nuova giunta stia adottando una certa continuità in materia di queste politiche. Assolutamente sì. Va bene, Daniele, io ti ringrazio. Se vuoi, non so se avete insomma dei riferimenti, delle iniziative, dei momenti di discussione rispetto a questa situazione che vuoi ricordare, altrimenti magari ci riaggiorneremo nelle prossime settimane. Ma al momento posso fare riferimento a una pagina che c'è su Facebook che si chiama Salviamo il San Luigi, da cui tra l'altro è anche partita una raccolta firme che sta andando avanti nella popolazione in questi giorni, in queste settimane. E eventualmente altri riferimenti potremo inviarli al sito della radio se qualcuno vorrà interessarsi della questione e avere maggiori informazioni. Perfetto, allora rimandiamo anche noi ai riferimenti che ci hai dato. Io per ora ti ringrazio, appunto magari ci risentiremo nelle prossime settimane per vedere un po' come evolve la situazione. Perfetto. Per ora un saluto e un augurio di buona giornata. A voi. Ciao. Ciao ciao. E questa appunto è la situazione per quel che riguarda l'ospedale San Luigi. Insomma, abbiamo scelto un po' di affrontare questo caso particolare, visto che appunto nelle scorse settimane c'era stata un accenno di mobilitazione dai residenti, dai lavoratori dell'ospedale, che si sono appunto trovati in assemblea per discutere di questa situazione. È ovvio che appunto questo caso rientra in una serie di politiche più generali che andranno ad attaccare ulteriormente tutto il servizio sanitario regionale, a cui appunto, a detta dello stesso Aldo Reschigna, appunto l'assessore al bilancio della Giunta Chiamparino, si accompagnerà a tagli molto pesanti anche in una serie di altri ambiti, tra cui il diritto allo studio, che era tra l'altro uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Chiamparino, che aveva promesso di rifinanziare le borse di studio. Ad oggi il rifinanziamento è stato piuttosto risicato e assistiamo ancora una volta alla solita vecchia tattica del dare con una mano e togliere poco dopo con l'altra. Ci saranno tagli molto pesanti anche al trasporto pubblico locale, e questo anche sarà insomma qualcosa che si vedrà concretamente in maniera forte nei prossimi mesi, insieme insomma dimezzamenti dei fondi per lo sport e altre cose. Quindi appunto come dicevo,

gli sperperi della giunta Cota, l'uso di denaro pubblico per spese private frivole dei consiglieri, lo smantellamento di borse di studio o sanità, l'attacco insomma contro le donne, il diritto all'aborto e molto altro. Ovviamente non sarà una manifestazione in difesa della giunta Chiamparino, visto che, come commentavamo proprio poco fa, la continuità in termini di politiche è assolutamente lampante, ma sarà insomma l'occasione per dire che appunto Renzi e Chiamparino non sono un'alternativa a Salvini e alla Lega e viceversa, ma che sono appunto la stessa la faccia della stessa medaglia, che si contendono un po' ciò che rimane dei nostri diritti, delle nostre libertà e soprattutto anche del denaro pubblico. Per costruire appunto questa giornata ci sarà un'assemblea cittadina domani pomeriggio, l'appuntamento è alle 17 a Palazzo Nuovo, l'aula verrà indicata in atrio prima dell'assemblea, di modo che insomma quanti arriveranno sul posto possano avere tutte le indicazioni del caso. Però appunto l'invito per ora è a partecipare, su Facebook c'è anche l'evento con appunto questo, con un breve testo e il rilancio appunto dell'assemblea e poi del 28, quindi appunto l'invito è a partecipare. Prima di chiudere proseguo appunto con la lettura degli appuntamenti, partendo proprio dalla giornata di oggi. Questa sera, come tutti i martedì, consueto appuntamento all'asilo occupato di Via Alessandria con la cena benefit per Radio Blackout, appuntamento ore 20:30. Mondo, gente deborgata, rock beats. Questo è per tutti voi, regà. Ve lo stiamo dentro al cuore, tutti quanti, voi. Un grazie da tutti quanti, noi. Per quelli che sanno quanto è dura questa vita, il coraggio che ci hanno di tampone ogni ferita. Nel viaggio che fanno c'è compresa la fatica. Pesa la salita, sì che pesa la salita. Per quelli rinchiusi, senza uscita, senza via. Per quelli confusi in una vita come la mia. Quelli che ci stanno, pure senza gloria. Ancora cantano ste strade, non lo sanno, ma fanno la storia. Pure sempre vedo voi ci state. Il tempo passa, ma restate, cambiano anni. E per quanto riguarda invece la giornata di domani, mercoledì 18 marzo, sempre all'asilo occupato di Via Alessandria 12, appuntamento col Love Story Cineforum, dalle ore 20 aperitivo benefit lotta contro il CIE, alle 21 proiezione di La ballata di Strozzer di Herzog. Uno per uno, e se ancora c'è una testa che fa uno più uno, lo devo a voi più che al destino, è terra di nessuno, sto mondo è infame e manda i sentimenti in frantumo. Sempre nella giornata di domani, questa volta al Mezcal Squat, cena bella vita a partire dalle ore 19, con fornelli aperti, viene a cucinare quello che vorresti mangiare. A seguire proiezione del Meglio del Peggio di Torino Ribelle. Per quelli che sanno quanto è dura questa vita, il coraggio che ci hanno di tampone ogni ferita. Nel viaggio che fanno c'è compresa la fatica. Pesa la salita, sì che pesa la salita. Per quelli rinchiusi, senza uscita, senza via. Per quelli confusi in una vita come la mia. Quelli che ci stanno, pure senza gloria. Ancora calcano ste strade, non lo sanno, ma fanno la storia. E per quanto riguarda invece la giornata di giovedì 19, alle ore 21 al centro sociale Ascatasuna, presentazione del libro di Marco Bertorello, Non c'è euro che tenga, per non piegarsi alla moneta unica non serve uscirne. Incontro e dibattito con l'autore su crisi, euro e lotte, appuntamento in Corso Regina 47. Abbiamo da sempre, a volte ci proviamo e crediamo nell'amore, a volte ci perdiamo e affoghiamo nel rancore, a volte pesa troppo quando è troppo il dolore, io raccioppo cicatrici mentre sanguina il mio cuore, alle persone sole con la tristezza negli occhi, vita di... E sempre per quanto riguarda la serata di giovedì, questa volta a Palazzo Nuovo al terzo piano biblioteca autogestita, tornano appunto le consuete feste del terzo piano, a partire dalle ore 19 ci sarà aperitivo, a seguire concerti live e musica per tutta la sera, appuntamento a Palazzo Nuovo piano meno 2. Pesa la salita, sì che pesa la salita. Per quelli rinchiusi, senza uscita, senza via. Per quelli confusi, in una vita come la mia. Quelli che ci stanno, pure senza gloria, ancora cantano ste strade. E arriviamo al fine settimana, venerdì 20 alla Cavallerizza Occupata, compleanno dell'ex Moi parte prima, la seconda sarà poi il 29 di marzo, dalle ore 19 dibattito sui 2 anni di occupazione e sulle minacce di sgombero recenti fatte dal Consiglio Comunale con aperitivo. Alle 21.30 ci sarà uno spettacolo a cura di Amisnet dal titolo Questo mare è di piombo, mentre dalle 23 si alterneranno in console artisti dell'ex Moi con DJ set reggae e altro ancora. Siamo senza loro, senza ricompense, ma viviamo per quel poco pure quando non ci porta niente, per chi da sempre non si arrende sta sul pezzo, per quelli come me sperando che arrivi il nostro tempo. Sempre venerdì invece qua negli studi di Via Cecchi 21 barra A continuano le presentazioni dei libri del ciclo Pulp, la polpa dei libri. Questa settimana sarà il turno di Cos'è il carcere? Vademecum di Resistenza di Salvatore Ricciardi per edizioni Derive e Approdi. L'appuntamento è alle 21 qua a Radio Blackout, sarà presente anche l'autore. E per la parte più musicale invece venerdì sera al centro sociale Ascatasuna dalle ore 23 presentazione di The Age of Shadows, Techno Room con Giulio T, Titta e Nano, Yashin, Patrick Di Stefano e Drum and Bass Alternative Room con Mr. Weibull e Electrofame Crew. Proseguo su sabato 21, visto che ancora Maurizio e Gianluca per il GR non si vedono. Appunto sabato 21 marzo, sempre al centro sociale Ascatasuna, cena benefit per Carlos, compagno basco arrestato a Roma e in attesa di estradizione, condannato a 16 anni di carcere. L'appuntamento è dalle ore 21, gradita la prenotazione al numero che trovate anche sull'evento Facebook. Un giorno da leone ma è pecora e mediocrità, il potere del successo non durerà, con i soldi non cambi la realtà, un treno prima classe prima o poi ti sorpasserà. È sabato giornata ricca di iniziative. Per quanto riguarda invece il centro sociale Gabrio di Via Miglio 42, Nevroz Piroz, serata benefit per festeggiare il capodanno curdo con Kobane nel cuore. Dalle ore 20 l'Orto di Walter presenta cena benefit per il Rojava, a seguire collegamento audio con i festeggiamenti per il Nevroz in Kurdistan. A seguire dalle 23 ci sarà un DJ set con la Blackout Gang, Music for Dance and Joy. Se, tutto quello che non mi appartiene me lo pago, mentre sputo le mie rime nella bocca del drago, è un occhio che mi segue ovunque vado, ma elimino il mio nome, la faccia mia dalle... Rimaniamo su sabato dalle ore 19 al Porfido di via Vanchiglia, via Tarino 12 C, dalle ore 19 appunto aperitivo per festeggiare i 5.000 libri in archivio, c'è anche lo spot per chi volesse passare. Come c'era, viene sotto scacco ogni pedina dalla torre nera, è una galera verso cui traghettano anime, ma un rime per difendermi. E infine torniamo qui agli studi di Via Cecchi, sempre per la serata di sabato, serata musicale dal titolo Il risveglio dei sessi, serata benefit Radio Blackout a cura di Malormone, da mezzanotte balla e travestiti, insomma si balla fino a notte fonda. Non risolvo, ti ritorna tutto colpi su colpi. Ma si del danno il turco e fili sui solchi. Siamo già troppi, poteri forti. Questa merda è mia e gode poteri forti. Sublima una tragedia in rima, fa giustizia ai torti subiti, puniti nell'angolo da piccoli sogni. Nel frattempo abbiamo fatto le 12.46, quindi io per questa settimana vi saluto in attesa del GR di Blackout. A seguire, se non sbaglio, non ci sarà Cattivi Pensieri, quindi credo che qualche redattore o redattrice coprirà l'assenza per questa settimana. Per quanto riguarda invece Parole Ribelli, vi do appuntamento martedì prossimo, sempre dalle 10.45 alle 12.45. Per ora vi invito a rimanere sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout. Un saluto e buon ascolto.